Il terzo anello. Effetto Terra. Di Silvia Zamboni. Buongiorno agli ascoltatori di Radio 3 da Silvia Zamboni. Per la puntata odierna del ciclo Effetto Terra, dedicato ai progetti di città italiane, europee per migliorare le condizioni dell'ambiente, per questa puntata, dicevo, cercheremo di riflettere sulla considerazione che una città dove stanno bene i bambini è una città dove stanno bene anche i grandi e sta meglio anche l'ambiente. Ci occuperemo quindi di quei progetti che prendono come indicatore lo stato di benessere dei bambini, lo sviluppo della loro autonomia rispetto agli adulti, ossia punti di vista che ci possono aiutare ad ottenere città più vivibili e ambientalmente e socialmente più sane anche per gli adulti. Ambiente pulito, quindi legato a idea di salute, di città a misura di bambino, di supporto allo sviluppo della loro autonomia. Per esempio negli spostamenti casa-scuola che non devono essere svolti necessariamente accompagnandoli in automobile, ma possono essere anche organizzati a piedi o in bicicletta, consentendo a loro di raggiungere la scuola in compagnia degli amici. Tra l'altro poi arrivarci in bicicletta, questo è un dato che viene dalle esperienze già fatte, li mette anche in uno stato di maggiore allegria. Ecco, a 14 anni si desidera il motorino, non è per definizione un mezzo di trasporto ecologico. Se quando si è più piccoli si è potuto sperimentare l'andare in bicicletta in città in sicurezza, montare a 14 anni sul motorino almeno non porterà a comportamenti spericolati. E se le strade residenziali in città fossero progettate o riprogettate non esclusivamente in funzione delle automobili, ma come vie che consentono e facilitano le relazioni interpersonali, gli spostamenti anche a piedi, gli spostamenti di vicinato, cambierebbero anche le nostre scelte in materia di mobilità, sicuramente a favore di scelte meno inquinanti. Ricordo agli ascoltatori di Radio 3 Rai, che sono Silvia Zamboni, e che vi sto parlando di interventi e politiche per ripensare la città e ricrearla a misura di bambino, facendo del bene agli adulti e anche all'ambiente. Uno degli elementi delle città contemporanee che sta sparendo è sicuramente il cortile. Senza eccedere in toni tipici da nostalgici del tempo passato, resta il fatto che i cortili sono stati palestre di gioco, luoghi per una spontanea socializzazione tra bambini, per la loro crescita in autonomia, mentre oggi non sono spesso nient'altro che garage a cielo aperto, aree in abbandono, non curate, non vissute, non sentite come spazi da condividere. Sentite invece, nel testo che segue, come i bambini della scuola elementare Pirazzini di Faenza hanno descritto il cortile della loro scuola recuperato al gioco grazie ad un progetto di riqualificazione partecipata al quale hanno dato il loro contributo e che ha coinvolto anche l'Istituto d'Arte Ceramica Ballardini, sempre di Faenza. Il testo è tratto da L'educazione ambientale nella scuola dell'autonomia, a cura di Milena Bertacci, edito da Cappelli. Così scrivono i bambini di quarta elementare sul loro cortile attuale. Una casetta di legno, resistente, grande, riempita di fantasia, dove i bambini ridono, scherzano, saltano come tante allegre cavallette, affacciandosi da una finestra all'altra. Una palestrina, scricchiolante, instabile, dove i bambini si arrampicano come koala e si lasciano scivolare tra le reti. Una fontana di ceramica multicolore, decorata, un fungo brillante dove i bambini bevono e si spruzzano, una fontana percorsa, frequentata, esplorata da chi vuole inventare giochi nuovi. Il ruscello, frusciante tra i sassi, freddo, trasparente, dove i bambini mettono le foglie e le seguono come se fossero barche. Una sabbiera, squadrata, morbida, senza colore e senza forma, dove i bambini, impiastricciati, inventano castelli di sabbia come se fossero al mare. Il prato, consumato, divertente, fantastico, dove si fanno grandi caprioli con grida e risate. Il gazebo, alto, imponente, centrale, un grande ragno sotto cui i bambini si rincorrono. I calcini, utili, usati, affollati come un centro commerciale, dove i bambini si accaniscono come in una partita di Serie A. Quattro pini, vecchi, maestosi come gli alberi di una nave. Sono circondati da bambini che si nascondono dietro il tronco ruvido e scuro. Le fronde abitate da tortorine lasciano cadere i loro aghi come aculi di un istrice. Quattro tavoli, comodi, spaziosi, sempre occupati, usati dagli accaniti giocatori di Game Boy, dai bambini che vogliono ascoltare i discorsi dei maestri, dai bambini solitari e da quelli che amano la conversazione, da quelli che si vogliono riposare e da chi è in punizione. Il professore Francesco Tonucci, ricercatore presso il CNR e responsabile del progetto La città dei bambini, studia da anni il pensiero del comportamento infantile. Nel suo libro La città dei bambini, edito dalla Terza, scrive a pagina 109: «Ripensare la città, volerla in un modo diverso, adatta a tutti, fino ai bambini, è una necessità urgente per prepararsi ad un futuro diverso, non controllato esclusivamente dalla produzione commerciale, non dominato dalle automobili e dai servizi». Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Ci spiega come si legano questi vari aspetti, città a misura di bambino che fa bene anche gli adulti, città aperta ad un futuro di sviluppo sostenibile? È abbastanza semplice dal mio punto di vista. I bambini non sono capaci di pensare una città solo per loro. Per loro serve una città dove ci siamo tutti. Intanto perché loro hanno bisogno di noi, degli adulti, e poi perché hanno bisogno di vivere in un ambiente ricco. Di fatto, negli ultimi decenni, le città si sono sempre di più specializzate negli spazi separati per persone diverse e per funzioni diverse. I quartieri per i poveri, i quartieri per i ricchi, le zone commerciali, le zone del divertimento, eccetera. Il che vuol dire che la città di oggi tende a escludere una serie di categorie sociali per le quali prevede dei servizi appositi, quindi i bambini nei luoghi dei bambini, gli handicappati nei loro centri diurni, eccetera, e gli anziani ugualmente, o chiusi dentro casa. Un bambino non penserebbe mai a una città così. Un bambino, la città che ha in mente è una città articolata, una città differenziata. Come è traducibile in pratica una città così come dice lei? Una delle cose che, se ricordo bene, ha scritto è anche che i bambini hanno bisogno di gioco libero, non solo di palestre, ludoteche o giardini come servizi. Esattamente. Chi si occupa di sviluppo infantile non ha dubbi che il gioco infantile sia una delle esperienze più importanti per lo sviluppo di un uomo o di una donna. Giocare vuol dire avere sufficiente autonomia per uscire di casa, cercarsi degli amici, cercare dei posti adeguati al gioco che si è scelto e vivere insieme l'esperienza della scoperta, dell'avventura, della sorpresa, dell'ostacolo, del rischio, tutte esperienze che sono possibili se non c'è un adulto che mi accompagna per mano, che vigila. Questa esperienza primaria che è stata garantita a tutti i bambini fino a poche decine di anni fa, oggi è quasi impossibile per un bambino delle nostre città. Il genitore moderno pensa che sia suo dovere non lasciar mai da solo il figlio, tenerlo se possibile per la mano o accompagnarlo in macchina, e se lo deve lasciare, lo deve lasciare in mano ad altri adulti che si fanno carico della sicurezza del figlio. Viene a mancare al bambino l'esperienza fondamentale del rischio, cioè del momento in cui da solo deve affrontare e risolvere dei problemi. Sono abbastanza convinto che molti problemi drammatici che oggi viviamo negli adolescenti, l'impennata di incidenti stradali, le esperienze di bullismo scolastico, le esperienze precoci di droga, fino all'esperienza tragica del suicidio, io credo che siano anche collegate a questa mancanza di esperienze, anche con una certa dose di rischio, sulle quali si costruiscono le difese, si costruiscono le regole, si costruisce la capacità di affrontare la vita. Se tutto questo non è possibile a 1, 2, 4, 7 anni, dove i bambini vanno a cercarsi i rischi adeguati alla loro età, certo non sono aspiranti suicidi, i bambini sono sempre mossi da un principio di piacere, se non possono mai provarli queste esperienze, la mia sensazione è che si va accumulando un bisogno di rischio che esplode poi nel primo momento che hanno la possibilità di fare quello che vogliono, e questo è più o meno nell'età dell'adolescenza, quando per la prima volta hanno le chiavi di casa in tasca o un motorino sotto il sedere. Quindi il paradosso di città segmentate, specializzate, che presentano alte dosi di pericolosità, vedi appunto il traffico automobilistico, che non consentono quindi una crescita bilanciata, equilibrata anche nel rapporto con la propria, certo, voglia di esprimersi. Una città che apparentemente è tutta mirata alla prevenzione, alla cura, alla protezione, perché questi sono i grandi slogan, è una città sommamente insicura. Un po' come la casa di oggi è certamente molto più sicura della casa dove siamo vissuti noi bambini, però si stava a casa il meno possibile. Non è che la casa sia insicura, diventa insicura perché ci si sta di più di quello che è necessario, si vive l'esperienza della noia, e un bambino che si annoia per uscire deve inventare qualcosa, una volta smonterà una presa, un'altra volta proverà cosa succede se apre il gas, un'altra volta si sporgerà dalla finestra, sempre alla ricerca di quell'esperienza forte di cui un bambino ha bisogno, ma la casa non è adatta. Ricordo agli ascoltatori di Radio 3 Rai che è collegato al telefono con noi il professor Tonucci e che stiamo parlando con lui di città a misura di bambino, le città dove stanno bene anche gli adulti. Professore, chissà quante volte le hanno dato dell'utopista? Parecchie volte. Ho sempre risposto che mi sembra molto più utopista continuare a vivere come stiamo vivendo adesso. A proposito allora invece del cambiamento possibile, che esempi ci potrebbe illustrare di esperienze che ci dicono che il cambiamento appunto è raggiungibile? Gli esempi ce ne sono molti, perché ormai abbiamo, in questi 17 anni che stiamo lavorando, abbiamo una rete di città che hanno aderito al nostro progetto, di circa 150 città fra Italia, Spagna, Argentina, e adesso stanno iniziando altri paesi del Sud America. Però vorrei riferirmi a due esperienze di grandi città, perché quando si portano i casi molto più frequenti e certamente più facili che avvengono in città di piccole dimensioni, si pensa che sia facile. Non è facile, ma comunque. Uno è l'esperienza che abbiamo vissuto per vari anni, negli ultimi anni, dal 2001 all'anno scorso, con il Comune di Roma, che aveva aderito alla città dei bambini, ne era diventata città capofila della rete e si era aperto un consiglio dei bambini. Il sindaco di Roma aveva chiesto ai bambini l'aiuto e i consigli per poter essere un sindaco veramente di tutti. E cosa avete ottenuto? Per esempio, fra le varie proposte che i bambini hanno fatto, a un certo punto hanno scoperto che il regolamento di polizia urbana del Comune di Roma, all'articolo 6, prevedeva un secco nei luoghi pubblici e proibito giocare. I bambini hanno esaminato questo testo, hanno esaminato la Convenzione dei diritti del bambino, che l'articolo 31 prevede il diritto dei bambini al gioco, hanno scritto al sindaco, hanno detto è sbagliato, il sindaco ha riconosciuto che avevano ragione, si è lavorato a lungo e poi è uscito un articolo nuovo, che adesso è l'articolo 6 del regolamento di polizia urbana di Roma, che dice che nel rispetto dell'articolo 31 della convenzione il Comune di Roma favorisce il gioco dei bambini nei luoghi pubblici. Quindi i bambini hanno portato a un cambiamento formale. Certo, questo non vuol dire che sia cambiata la vita dei bambini, noi speriamo di poter continuare a lavorare col Comune di Roma per rendere attuale e vero questo articolo, che però formalmente è stato una battaglia vinta dai bambini. L'altro caso di cui ci voleva parlare? L'altro esempio è un esempio che mi colpì molto e mi diede molta fiducia, perché avvenne in territori di grande pericolosità ambientale come la Gran Buenos Aires. In alcuni municipi dove c'era una continua, frequente aggressione ai bambini da parte di ragazzetti che li fermavano per togliergli le scarpe da ginnastica o la giacca a vento, c'è stata una ribellione della popolazione che ha detto non vogliamo più polizia, ma vogliamo quell'esperienza, come dice quel signore italiano, eccetera, riferendosi al nostro progetto, e hanno cominciato a studiare dei percorsi sicuri per far andare i bambini a scuola. Dopo anni di questa esperienza c'è stato un convegno a cui ho partecipato a Buenos Aires nel 2005, il responsabile della sicurezza urbana ha riconosciuto che nei quartieri e nei municipi dove si faceva questa esperienza gli atti criminali erano crollati del 50%. Come lo spiega lei? Un bambino che si muove col padre è un fatto privato nel quale non può entrare nessuno. Un bambino che si muove da solo, quando dico bambino, bambini di 6, 7, 8 anni, che si muove da solo, costituisce un fatto pubblico di cui tutti dobbiamo farci carico e non possiamo esimerci dal farcene carico. Dove i bambini tornano a scuola da soli, e lo stiamo facendo in molte città, si sta ricostruendo un clima di solidarietà urbana. Nei quartieri dove i bambini si muovono, la gente si fa carico dei bambini. E in un ambiente dove la gente si fa carico, è difficile fare atti di criminalità, perché c'è un controllo sociale. Secondo me, non l'esercito per strada, ma la gente per strada garantisce la sicurezza. Grazie, professore. Grazie per essere stato con noi. Prego. Il cosiddetto pedibus è un autobus pedonale, ossia una forma di accompagnamento collettiva dei bambini a scuola che offre un'alternativa sicura e conviviale al trasporto in auto con i propri genitori. Il progetto del pedibus, nelle sue versioni di qualità, prevede anche interventi di arredo urbano, di messa in sicurezza del percorso casa-scuola, allo scopo di poter creare strade appunto a misura di bambino. La progettazione e la ristrutturazione dei percorsi con individuazione dei capolinea, fermate e orari delle fermate. Il coinvolgimento dei cittadini attraverso l'organizzazione di forze spontanee che accompagnano i bambini, ossia genitori, nonni, insegnanti. L'esperienza del pedibus va diffondendosi anche in Italia, è nata all'estero, ma sta prendendo piede, diciamolo, anche da noi. E sebbene il pedibus non raggiunga l'obiettivo massimo di sviluppare l'autonomia dei bambini negli spostamenti casa-scuola e ritorno in una città più sicura ed accogliente per loro, in quanto appunto prevede l'accompagnamento di una figura adulta, tuttavia rappresenta un'esperienza positiva e sempre una soluzione anche educativa per dimostrare che si può fare a meno dell'automobile. Di sicuro aiuta ad eliminare le doppie e terze file di auto parcheggiate al di fuori delle scuole negli orari di ingresso e uscita dei bambini da scuola. Il pedibus, come dicevo, si va diffondendo da grandi comuni come Firenze a comuni più piccoli come Montebelluna. L'elenco delle città, quindi, e dei paesi dove le scuole, in collaborazione con le amministrazioni municipali o con l'ASL o con altre associazioni, hanno organizzato il pedibus, questo elenco è lungo e speriamo che si allunghi ulteriormente nel nuovo anno scolastico 2008-2009. Sentiamo ora come funziona il pedibus di Losanna, la città che ha visto nascere l'autobus che va a piedi e che ha fatto scuola in tutta Europa e non solo. È collegata al telefono con noi Catherine Zaccaria del comune di Losanna, è la responsabile dell'ufficio che segue da anni l'organizzazione del pedibus. Buongiorno signora Zaccaria. Buongiorno. Senta, dunque, siete stati i primi a far nascere il pedibus. Ecco, da allora, quante linee di pedibus avete attivato? Dal 1999, da quando è nata questa iniziativa di accompagnare i bambini a scuola a piedi, abbiamo creato a Losanna 31 linee di pedibus. L'anno scorso, invece, ci sono stati 21 linee attive, perché ogni anno è una nuova storia per ogni linea di pedibus, visto che sono nuovi genitori che partecipano a questo atto collettivo. Ecco, come lo organizzate? Facciamo una riunione dove tutti i genitori che sono interessati al funzionamento di una linea tra il quartiere e la scuola dei loro bambini si riuniscono e decidono assieme di un planning settimanale sul quale si possono iscrivere per accompagnare questo gruppo di bambini. È uno scambio di servizio tra i genitori e anche per una questione di sicurezza, perché conosciamo sempre le persone che accompagnano questi bambini. E quali obblighi quindi hanno i genitori che iscrivono i loro bambini al pedibus? Allora, l'obbligo è di accompagnare sempre il bambino iscritto a questo sistema di accompagnamento, in modo che il bambino aspetta il conduttore. Noi utilizziamo gli stessi termini che i trasporti pubblici, dunque il genitore diventa un autista conduttore di pedibus. Parliamo di linea di pedibus e parliamo anche di fermate di pedibus. Il genitore, al momento che è iscritto sul planning settimanale per accompagnare i bambini, e della sua responsabilità di essere presente per accompagnare questi bambini nel caso che lui non potesse, perché per tante ragioni ha fatto, è suo compito di trovare una persona che lo rimpiazza. Senta, ma sono genitori che non lavorano, se hanno il tempo di fare No, sono genitori anzi che lavorano, genitori giustamente che hanno queste organizzazioni familiari che diventano una cosa molto complicata, perché da noi il bambino va la mattina e il pomeriggio a scuola, dunque vuole dire 4 tragetti per un genitore al giorno, ed è il compito mio insomma di inserire i genitori secondo le loro disponibilità. Nascono anche delle amicizie tra genitori, ha anche un effetto sui rapporti sociali? Molto, questo è giustamente il punto così positivo. È un bambino che cresce in un ambiente dove c'è legame e tutto beneficio per il bambino e la sua famiglia. E noi da un obbligo accompagnare i bambini piccoli a scuola ne abbiamo fatto un pretesto per incontrarci. Dunque durante l'anno i genitori hanno anche altre organizzazioni che fa crescere questo legame nel quartiere. Senta, ci sono anche dei benefici dal punto di vista ambientale? Diciamo, non è che possiamo calcolare questo beneficio a livello dell'ambiente, però è logico, voi lo sapete come in Italia, la gente adopera la sua automobile per meno di 2 chilometri, ci sono dei studi che sono stati realizzati, e con questo tipo di démarche pedibus evitiamo questo problema. La gente non adopera più la macchina per accompagnare il bambino a scuola invece di andare a piedi. E i bambini come reagiscono? I bambini hanno molto piacere. Andare a scuola diventa una cosa simpatica, ritrovano i loro amici, eccetera. Sanno che andando al pedibus, quando sono piccoli, sono accompagnati, però mano a mano che crescono imparano anche il comportamento adeguato vicino alla strada con tutte le sue pericoli che possono esistere, e noi abbiamo anche la responsabilità di imparare al bambino a diventare autonomo per poter andare dopo a scuola da solo. Bene, signora Katrin Zaccaria, la ringraziamo di essere stato con noi e delle informazioni che ci ha dato. A risentirci, buongiorno. Buongiorno. Raymond Lorenzo, urbanista di origine newyorkese da 25 anni in Italia, si occupa di politiche e di interventi per rendere le città più amiche dei bambini. Lorenzo, che è collegato al telefono con noi, buongiorno. Buongiorno. Lorenzo, dicevo, è presidente e direttore scientifico della cooperativa ABC Città di Milano, che partecipa ad un progetto europeo che coinvolge le città di Atene, Madrid, Lisbona, Roma, Varsavia e Vilnius. Ha per oggetto le vie come luogo di vita e non di traffico. Che obiettivi si è dato il vostro progetto? Di cercare di creare un nuovo modello di educazione stradale, cioè di focalizzare su una nuova concezione della città e della strada, le strade in particolare, non soltanto come corridoi di movimento per automobili e altri mezzi, ma soprattutto come luogo di vita. Per esempio, in una delle città sta emergendo delle considerazioni che ci avvicinano al concetto di shared space, che è una forma di trasformazione, non dico minimale, ma non di grande intervento, dei spazi strada in cui si cerca di addirittura eliminare segnalettiche, eliminare la differenza fra marciapiedi e strada, cioè creare un luogo in cui l'automobilista, il bambino o la famiglia o la persona in bicicletta sono sullo stesso piano. Questo ovviamente richiede una nuova relazione fra le persone, si guarda in occhio per dire, sanno che sono presenti altri, e i risultati di queste esperienze si vede dopo anni di sperimentazione, una riduzione nella velocità dell'automobile, anche senza mettere una cartella che dice 30, 40 o 50, una riduzione notevole negli incidenti e ovviamente un miglioramento nella qualità delle relazioni e della vita urbana in questi spazi. Quali altre esperienze conosce che uniscano aspetti di sostenibilità ambientale, sviluppo dell'autonomia del bambino e qualità urbana? Stiamo lavorando nel comune di Correggio, che è un piccolo comune nel Reggiano, che nell'ambito del nuovo piano strutturale siamo stati chiamati a coinvolgere i bambini e tramite i bambini i cittadini in grandi numeri. per esempio maggiore attenzione alla promozione dell'uso delle biciclette rispetto agli alberghi che sono presenti in zone, hanno riprogettato 3 piccole piazze nella città e dai bambini piccolissimi ci sono state un'indicazione dell'importanza dell'acqua nella città, sia dal punto di vista di divertimento, di poter bagnarsi, ma nel dialogo con i genitori e con i tecnici si hanno capito quanto l'acqua potrebbe ammorbidire l'effetto della città, sia attraverso il suo impatto sul clima, il microclima o anche sull'abbattimento dei rumori. Come esperienze al di fuori dell'Italia cosa le viene in mente? Le esperienze che io seguo da molti anni, però da lontano, dal mio paese, è quello che viene chiamato negli Stati Uniti community open space o community gardens, che sono nati già nella metà degli anni 70 dopo le distruzioni dei centri della nostra città attraverso i programmi di rinnovamento urbano che effettivamente servivano a abbattere quartieri poveri ma vivibili e trasformarli in centri commerciali o comunque centri più legati alle grandi funzioni della città. I soldi sono finiti, molti dei spazi sono rimasti vuoti, abbandonati, il Bronx è un esempio. In quel periodo molte associazioni locali si sono formate spontaneamente, sia fondazioni che associazioni nazionali, una in particolare la Fondazione per i Terreni Pubblici che svolgeva un ruolo molteplice nel facilitare la trasformazione di questi luoghi, cioè da luoghi abbandonati dalla criminalità, dalla disperazione, in giardini o parchi giochi, in molti casi in orti urbani o addirittura dove la clima permetteva, ci sono anche esempi di vigne in città o di luoghi dove addirittura gli animali vanno riportati in città. Ci sono oramai, non ho un cifra diciamo precisa, ma più di 700 di questi luoghi che sono effettivamente terreni pubblici perché sono tenuti aperti, però non sono gestite dai comuni, sono gestite dalle associazioni, in molti casi in collaborazione con i comuni. Un grande impatto sulla qualità della vita in questi quartieri, ma anche sulla coscienza diffusa tra gli abitanti della necessità di aumentare e arricchire il verde in città e anche dare un ruolo, come posso dire, più attivo nei cittadini nel gestirlo. Bene, Raymond Lorenzo, la ringrazio di essere stato con noi e le auguro di proseguire l'attività felicemente. Grazie. La città dei bambini non è un progetto per i bambini, ma per la città, ha scritto il professor Francesco Tonucci. Ecco, abbiamo sentito come questa prospettiva possa aiutare a declinare in modo più complesso e ampio il tema, per esempio, della sicurezza stradale e come il ridurre l'uso dell'automobile possa essere un'esigenza non solo funzionale alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione delle emissioni che, per esempio, contribuiscono all'effetto serra, ma possa essere funzionale ad avere una città che è a misura di bambino, ma anche a misura di adulto, dove stiamo meglio tutti quanti. Per oggi ci fermiamo qui. Ringrazio per la parte tecnica Leonardo Grasso della sede RAI di Roma e Maurizio Gualandi della sede RAI di Bologna. Grazie anche a voi per essere rimasti in nostra compagnia. Vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre su Radio 3, alle 10.50. Ci occuperemo di rifiuti urbani. Da Silvia Zamboni, ancora a voi tutti l'augurio di una serena domenica. Effetto Terra di Silvia Zamboni. Un programma a cura di Patrizia Todaro. Regia di Paola Roli. Letture di Donato Graziosi. Il terzo anello @rai.it.